Il terzo anello ad alta voce, I mandarini di Simone de Beauvoir. Henri si sentiva piuttosto sollevato all'idea che le questioni di denaro sarebbero state risolte una volta per tutte, e fu a cuor leggero che due giorni più tardi entrò nell'ufficio di Trarieux, un ufficio pieno di libri che annunciava piuttosto un intellettuale che un uomo d'affari. Ma Trarieux stesso, tarchiato, elegante e mezzo calvo, aveva molto esattamente l'aria del ricco industriale. «Pensare che durante tutta l'occupazione abbiamo lavorato così vicini e che non ci siamo mai incontrati», disse stringendo con vigore gioviale la mano di Henri. «Voi conoscevate molto bene Verdelin, non è vero?» «Certo, eravate nello stesso gruppo?» «Sì, era un uomo notevolissimo», disse Trarieux in tono discretamente funebre. Un sorriso di fierezza gli arrotondò puerilmente la faccia. «Fu grazie a lui che incontrai Saint-Mazel», fece segno a Henri di sedere e sedette lui stesso. «In quei tempi erano i valori umani a contare, e non il denaro». «Sono tempi già lontani», disse Henri, tanto per dire qualcosa. «Dubreuil vi ha messo al corrente della situazione?» «All'ingrosso, sì». C'era nello sguardo di Trarieux un'interrogazione imperiosa. Conosceva benissimo i fatti, ma voleva aver modo di studiarsi Henri a proprio agio, e bisognava giocare al suo gioco. Henri si mise a parlare senza convinzione, osservandolo a sua volta. Trarieux lo stava a sentire con un'affabilità un po' condiscendente, sicuro dei propri privilegi, soddisfatto di averli teoricamente rifiutati, si sentiva superiore a quelli che non possedevano niente come a quelli che non avevano consentito interiormente a lasciarsi privare dei propri possessi. Non era precisamente così che Henri se l'era immaginato dai discorsi di Dubreuil. Sul suo viso non c'era traccia di debolezza, né di inquietudine, ma neppure di generosità. Se era di sinistra, lo era sicuramente per opportunismo. «Vi parlerò francamente», disse Trarieux. «Voi siete una persona molto nota e anche molto popolare, ma permettetemi di osservare che il vostro amico Luc non è nessuno, non ha nessuna notorietà. Inoltre, ho letto degli articoli suoi decisamente maldestri». Il suo tono si fece duro. «Giudico che a fianco del vostro nome ci vorrebbe un nome ugualmente popolare. Saint-Mazel sta diventando celebre. Domani tutti parleranno di lui. Henri Perron e Jean-Pierre Saint-Mazel. Ecco una buona ragione sociale. E poi bisogna infondere al vostro giornale un dinamismo nuovo. Saint-Mazel è una forza della natura. Ecco cosa vi propongo. Io liquido i vostri debiti, ricompro la metà delle parti dell'Espoir a condizioni che discuteremo. E voi, Luc e Saint-Mazel, vi spartite l'altra metà. Le decisioni saranno prese alla maggioranza dei voti». «Voi v'eravate impegnato ad aiutarmi senza condizioni», disse Henri. «E fu sulla base di questa promessa che acconsentii a fare dell'Espoir l'organo dell'SRL». «Ma no, vediamo, io non vi impongo alcuna condizione. Sono perfettamente d'accordo perché la linea politica del giornale resti esattamente la stessa. Vi chiedo soltanto di prendere le misure necessarie a un consolidamento che voi dovete augurarvi quanto me». «Non ho mai nascosto che certi rimaneggiamenti mi sembravano indispensabili alla buona gestione dell'Espoir». «Non è quel che mi ha detto Dubreuil», disse Henri. «Non so cosa abbia detto Dubreuil, ma so quel che gli ho detto io. Se c'è stato un malinteso è davvero un peccato. Io m'ero spiegato chiaramente». «L'avevate messo al corrente della vostra combinazione?» «Perfettamente. Ne discutemmo anzi a lungo». C'era nella sua voce una sincerità così convincente che Henri restò un momento in silenzio. «In ogni modo, Dubreuil non ha capito che si trattava di una condizione sine qua non», disse alla fine. «Immagino che abbia capito quello che voleva capire», disse Trarieux con una punta d'animosità. «Sentite», disse in tono conciliante. «Vi basterà parlare 5 minuti con Dubreuil per convincervi della mia buona fede. Allora capirete sicuramente quale opportunità costituisce per voi la mia offerta. Visto che, siatene sicuro, nessuno accetterà di riprendere l'Espoir con i suoi 6 milioni di debiti. O se accetterà sarà a condizioni ben diverse dalle mie, a condizioni politiche». «Non dispero di trovare un appoggio disinteressato», disse Henri. «Ma l'avete già trovato», disse Trarieux. Sorrise. «Considero questo incontro come una semplice presa di contatto. Per quanto mi riguarda, i negoziati restano aperti. Riflettete». Thank you. Improvvisamente la verità saltò agli occhi di Henri. Me l'ha fatta. S'accasciò su una panchina dell'Avenue Marceau. Nella sua testa, nel suo corpo, c'era un subbuglio così violento che credette un istante di svenire. Dubreuil m'ha mentito sapendo di mentire perché voleva l'espoir, e io sono caduto nella sua trappola. Henri andava a grandi passi. Se avesse camminato meno svelto, avrebbe vacillato. Cosa potrà rispondermi? Non potrà rispondermi niente. Aveva attraversato Parigi quasi senza accorgersene ed era arrivato davanti alla casa dei Dubreuil. Si fermò un istante sul pianerottolo per riprendere fiato. Non era del tutto sicuro che sarebbe riuscito a emettere suoni articolati. Cercò delle parole violente per gettargli in faccia la sua decisione, ma la sua collera non aveva niente di tonico. Anzi, si sentiva esaurito e persino vagamente spaventato e umiliato, come se fossero riusciti a tirarlo fuori da sabbie mobili dopo ore di lotta. La porta dell'appartamento sbatté e Henri strinse i pugni sui braccioli della poltrona. S'augurava disperatamente di saper mostrare a Dubreuil quanto orrore gli ispirasse. «È molto che m'aspettate», disse Dubreuil tendendogli la mano. Henri la strinse macchinalmente e mormorò: «Non molto. Ho da parlarvi d'urgenza». «Cosa c'è che non va?» disse Dubreuil con una voce che imitava a meraviglia l'inquietudine. «Sono stato adesso da Trarieux». Il viso di Dubreuil cambiò. «Ah, ci siamo! Non gliela fate più?» «E Trarieux? Fa delle difficoltà?» chiese con voce ansiosa. «Lo credo bene, ma avevate assicurato che era pronto a sostenere l'espoir senza condizioni e lui esige che prenda con me Saint-Mazel». Guardò fissamente Dubreuil. «Pare che voi lo sapeste». «Lo so da luglio», disse Dubreuil, «e appena l'ho saputo mi sono messo a cercare quel denaro altrove. Ho creduto che me l'avrebbe dato Mauvan, me l'aveva quasi promesso, ma l'ho rivisto dopo le vacanze e non sembrava più per niente deciso». Guardò Henri con inquietudine. «Non potete tirare avanti ancora per un mese?» Henri scosse la testa. «È fuori questione». E aggiunse incollerito: «Voi parlate di luglio, ma Trarieux afferma che in nessun momento si è impegnato a darvi il suo appoggio incondizionato». Bruscamente Dubreuil sorrise. «Cosa volete dire? Che vi ho mentito deliberatamente?» «Penso che avete preso i vostri desideri per delle realtà, senza preoccuparvi degli interessi miei», disse Henri con una voce che si sforzava di contenere. «Trarieux pagava. A quali condizioni pagasse, in fondo, non vi interessava». «Ho forse preso i miei desideri per delle realtà», disse Dubreuil. «Ma vi giuro che se avessi sospettato un secondo solo quel che Trarieux stava macchinando, l'avrei piantato immediatamente lì con tutti i suoi milioni». C'era nella sua voce un calore convincente, ma Henri non si sentiva convinto. «Non c'è che una soluzione. Lascio perdere tutto». Dubreuil lo guardò angustiato. «Capisco che siate in collera. Mi riconosco colpevole. Ho avuto torto a fidarmi così facilmente di Trarieux e avrei dovuto parlarvi della cosa già in luglio. Ma farò di tutto per riparare». La sua voce si fece insistente. «Ve ne prego, non impuntatevi. Cercheremo insieme un mezzo di uscirne». Henri lo guardò in silenzio. Bisognava dirgli: «Voi ve ne infischiate di me e di tutti quanti. Per amore del vero e del bene sacrifichereste chiunque. Ma il vero è solo quello che pensate voi. Il bene è solo quello che voi volete. Per voi tutto l'universo è opera vostra e non c'è misura comune tra voi e le creature umane. Quando giocate a fare il generoso, è ancora e sempre per la vostra propria gloria». E avrebbe avuto mille altre cose da dirgli. Ma allora avrebbe anche dovuto sbattere questa porta dietro di sé per non riaprirla mai più. «Non importa, è appunto quello che devo fare», pensò. Qualsiasi cosa avesse poi deciso riguardo al giornale, intanto doveva liquidare Dubreuil. S'alzò. Guardò il tavolinetto a ruote, i libri, la fotografia di Anne, e si sentì mancare il coraggio. Per 15 anni quello studio era stato per lui il centro del mondo e il suo proprio focolare. Qui la verità gli era parsa sicura, la felicità importante, ed essere se stessi un grande privilegio. Non poteva pensare che d'ora in poi sarebbe andato per le strade con quella porta chiusa per sempre dietro di sé. «È inutile, non c'è via d'uscita», disse con voce neutra. «Io non mi impunto, ma in queste condizioni occuparmi dell'espoir non mi interessa più. Si potrà sicuramente fare in modo che la mia partenza non pregiudichi l'avvenire del giornale, né quello dell'SRL». Quando Henri si ritrovò fuori, sentì che la testa gli girava. «Mi son lasciato giocare», pensò, e di nuovo gli parve evidente. Si trattava d'un complotto deliberato. Si fermò a metà del ponte e s'appoggiò al parapetto. Stava delirando. O non era pazzia piuttosto dubitare del machiavellismo di Dubreuil? Passava freneticamente da un'ipotesi all'altra e la testa gli scoppiava. Bisognava assolutamente che si consigliasse con qualcuno. Pensò a Lambert. Lambert non amava Dubreuil, ma pretendeva d'essere imparziale ed era il solo col quale si potesse discutere con calma. Cercò un caffè con telefono. «Pronto? Sono Perron. Posso salire a salutarti?» «Certo. Figurati». C'era un po' di stupore nella voce calorosa di Lambert. «Come va?» «Non c'è male. Salgo subito». Salì rapidamente le scale. Strana giornata. Passata a salire scale come un candidato all'accademia. «Salve, entra di qua», disse Lambert allegramente. Lambert ascoltò il racconto di Henri con attenzione. Poi disse: «Tu non credi che Dubreuil voglia entrare al giornale con Saint-Mazel o al posto di Saint-Mazel?» «No, non credo. Il giornalismo non l'interessa e in ogni modo controlla l'Espoir per conto dell'SRL. Ma questo non cambia niente. M'ha teso lo stesso una sporca trappola». Guardò Lambert. «Cosa faresti al posto mio?» «Manda tutto all'aria se vuoi, in modo da lasciare loro negli impicci. Ma quello che assolutamente non devi fare è di rifilargli gentilmente il giornale. Loro non vorrebbero altro». «Non voglio uno scandalo», disse Henri. «Ma lascerei volentieri perder tutto senza chiasso. Sarebbe un confessarti vinto e loro gongolerebbero». «Bisogna trovare qualcosa», disse Lambert. Stava andando su e giù per la stanza con aria meditativa quando si intesero due colpi imperiosi di campanello. Arrossì fino alla radice dei capelli. «Mio padre, non l'aspettavo così presto». «Me la squaglio», disse Henri. Lambert lo guardò con aria imbarazzata e supplichevole. «Non vorresti dirgli buongiorno?» «Ma sì, certo», disse Henri vivamente. Dire buongiorno non impegna a niente. Tuttavia non gli riuscì di sorridere che a metà, quando vide entrare quell'uomo che aveva forse mandato Rosa a morire e certo servito i tedeschi del suo meglio. Il signor Lambert attese che Henri gli tendesse la mano. Poi disse: «Ero proprio curioso di incontrarvi. Gérard m'ha tanto parlato di voi». Abbozzò un sorriso che represse subito. «Come siete giovane!» Ci fu un piccolo silenzio di cui Henri approfittò per alzarsi. «Mi dispiace, quando avete suonato me ne stavo andando. Ho un lavoro urgente». «È a me che dispiace», disse il signor Lambert. «Ho letto con molta attenzione tutto quello che avete scritto e ci sono certe cose che mi sarebbe piaciuto discutere con voi». «Avremo sicuramente occasione di rivederci più a lungo», disse Henri. «Non è così sicuro», disse il vecchio. «Tra qualche mese probabilmente sarebbe stato in prigione e forse non ne sarebbe uscito vivo. A suo tempo doveva essere stato un bel mascalzone questo grande imprenditore collaborazionista, ma aveva già passato la linea. Era dalla parte dei condannati e non più da quella dei colpevoli». Questa volta, stringendogli la mano, Henri gli sorrise senza sforzo. «Posso vederti domani?» disse Lambert accompagnando Henri nell'anticamera. «M'è venuta un'idea. Se passo verso le 10 di sera andrà bene?» «Andrà bene, ma non più tardi perché devo uscire con Scriassin». lasciar perdere tutto fu la prima cosa che Henri pensò svegliandosi. Il progetto era così attraente che la sera, quando Lambert bussò alla porta del suo ufficio, s'augurò che l'idea che veniva a proporgli non fosse buona. «Allora, senti cosa ho da proporti», disse Lambert. «Tu e Luc, soli contro Samazelle e Tarieu, rischiate di avere la peggio. Ma supponi che ci sia anch'io con voi». «Tu? Ho abbastanza soldi per comprare una parte uguale a quella di Samazelle. Allora, se resta inteso che le decisioni saranno prese alla maggioranza dei voti, saremo sempre 3-2. Ma tu non volevi lasciare il giornalismo? È un mestiere che ne vale un altro. E poi l'espoir è un po' anche la mia piccola epopea», disse Lambert con voce falsamente ironica. Henri sorrise. «Politicamente non andiamo sempre d'accordo». «Me ne infischio della politica», disse Lambert. «Voglio che tu non perda il tuo giornale. In ogni modo, il mio voto l'avrai sempre». E aggiunse scherzosamente: «D'altra parte non dispero di vederti cambiare un po'. No, la sola questione è di sapere se Tarieu consentirà». «Immagino che non gli farebbe piacere se me ne andassi. Se accetto Samazelle, credo bene che farà questa concessione». «Ma non hai l'aria entusiasta», disse Lambert un po' deluso. «Ma tutta questa storia mi ha esasperato. Non so più cosa voglio fare». «Vedremo», guardò l'orologio. «Hai la motocicletta?» «Sì, vuoi che t'accompagni in qualche posto?» «Portami a Rue de Lille. Scriassine abita dalla Belzance». «Vanno a letto insieme?» «Non so. Claudie ospita sempre una quantità di scrittori e di artisti. Non so da chi lo prende in questo momento». «Lo vedi spesso, Scriassine?» chiese Lambert mentre scendevano le scale. «No. Di tanto in tanto mi convoca imperiosamente. E verso la decima volta mi tocca di accettare». Henri suonò una porticina laterale e Scriassine venne ad aprire. Sorrise con calore, senza che la presenza di Lambert sembrasse sorprenderlo minimamente. «Claudie dà un cocktail. È terribile. La casa è piena di gigolò, non si è più in casa propria. Venite di qua». Salirono qualche gradino. In fondo a un corridoio una porta era aperta su una stanza illuminata e s'udiva un mormorio di voci. Claudie comparve sulla soglia. «Ah, questa è formidabile», disse indicando Scriassine. «Arriva mezzo ubriaco al mio cocktail, insulta i miei invitati e la gente più interessante se la porta via alla chetichella. Mai più riceverò un russo in casa mia». «Non strillate così», disse Scriassine, «o farete venire Cricri». «Cricri è il gazzettino locale», spiegò con un sospiro. Claudie richiuse la porta. «Resto con voi», disse con decisione. «Mia figlia farà da padrona di casa». Ci fu un silenzio imbarazzato. «Anne m'ha detto che avete scritto un bellissimo dramma», disse Claudie. «Ho scritto un dramma e già 3 direttori me l'hanno rifiutato», disse Henri allegramente. «Bisogna che vi faccia conoscere Lucie Bellhomme», disse Claudie. «Lucie Bellhomme? E chi è?» «Siete straordinario. Tutti vi conoscono e voi non conoscete nessuno. È la direttrice della grande casa a Marigny, la casa di mode di cui parlano tutti. Ha una figlia proprio bellina e sta cercando di farne un'attrice. Ci sarà bene una parte femminile nel vostro dramma». «Sì, ma...» «Con Iman non s'arriva a niente. Vi dico che la piccola è proprio carina. Il giorno che mi verrete a trovare vi presenterò. Voi non venite mai ai miei giovedì, ma questa volta devo chiedervi un favore che non potrete rifiutarmi», disse Claudie con voce petulante. «Ecco, io mi sto occupando d'un asilo per figli di deportati e quest'asilo costa caro, troppo caro per me sola. Così organizzo una serie di conferenze a pagamento con conferenzieri gratuiti. Di snob pronti a tirar fuori un paio di mila per vedervi in carne e ossa, ce ne sono quanti se ne vuole. Vi iscrivo per una delle prime conferenze». «Detesto questo genere di scemenze», disse Henri. «Per i figli dei deportati non potete rifiutarmelo. Persino Dubreuil accetterà». Claudie si mise a ridere. «Guardate Scriassine che aria furiosa. Trova che vi sequestro». «Mi scuso», disse Scriassine, «ma effettivamente avrei voluto dire una parola a Perron». Si piantò davanti a Henri. «Tu sostenevi l'altro giorno che affiliandosi all'SRL, l'Espoir non ha rinunciato a dire la verità». «Un mio amico è giusto tornato da Berlino e mi ha dato informazioni precise sul modo in cui i russi hanno soffocato sul nascere la rivoluzione tedesca. Bisogna che sia un giornale di sinistra a divulgarle. Sei disposto a farlo?» «E cosa racconta il tuo amico?» Scriassine si guardò intorno. «Molto all'ingrosso posso dirtelo in 2 parole. Ci sono sobborghi di Berlino che sono restati ferocemente comunisti, anche sotto Hitler. Durante la battaglia per la città, gli operai di Köpenick, come quelli di Wedding la Rossa, hanno occupato le fabbriche, hanno issato la bandiera rossa, hanno organizzato comitati. avrebbe potuto essere il principio di una grande rivoluzione popolare. E invece, cos'è successo? È successo che burocrati venuti da Mosca hanno spazzato via i comitati, liquidato la base, installato un'organizzazione di Stato, vale a dire un organismo d'occupazione. Fissò gli occhi su Henri. Non ti dice niente? Disprezzo degli uomini. Tirannia burocratica. Il caso è assolutamente tipico. Non mi racconti niente di nuovo, disse Henri, ma dimentichi di precisare una cosa, e cioè che i burocrati di cui parli sono comunisti tedeschi rifugiati nell'Unione Sovietica che già da anni avevano creato a Mosca un comitato della Germania Libera. Erano dunque più adatti, mi pare, di quelli che si sono rivoltati durante la caduta di Berlino. Ne ero sicuro, scoppiò Skriasin. A condannare l'America siete sempre pronti, ma quanto a riconoscere i torti dell'Unione Sovietica... Ma salta agli occhi che hanno avuto ragione di agire come hanno agito, l'interruppe Henri. Non capisco, disse Skriasin. Ma sei davvero cieco? O hai paura? Dubreuil è venduto. Tutti lo sanno. Ma tu? Dubreuil venduto. Non ci credi neppure tu. Oh, non è col denaro che il Partito Comunista compra la gente. Dubreuil è vecchio, è celebre, ha già il pubblico borghese. Ora vuole le masse. Vallo dunque a raccontare ai militanti dell'SRL che Dubreuil è comunista, disse Henri. L'SRL, una bella montatura, disse Skriasin abbandonandosi all'indietro nella poltrona e mettendosi a fissare il soffitto. Thank you.